Banda armata, puoi iniziare. Vai con la sigla. Che gesticola con le armi, e tra i nuovi santi illuminati al neon sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, e qui intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, lenti incriminati per si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è accettata la provenienza del scempio. Mentre tu che stringi poi di aver paura, l'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri rilegati e letti mai. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare, Cavour, testa pelata, e il copione ormai lo san tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato. Ma lo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Salve, bentrovati, questa è la puntata di Banda Armata, e la puntata della trasmissione radio che viene fuori dagli infuocati cubi dell'Unical. E andiamo in onda adesso in diretta web e in differita su Radio Ciroma il giovedì alle 16.30 e la radio transizione di fase alle 21.30, un'altra radio transizione di fase, un'altra web radio calabrese. Oggi riprendiamo dopo una breve pausa che ci siamo presi dopo la sbornia referendaria, e quindi riprendiamo da lì il discorso appunto che abbiamo portato avanti con il referendum, che parla di ripubblicizzazione dei beni essenziali e dei servizi essenziali, come quello dell'acqua e come la questione del nucleare, che è importante in vista anche del nostro sostentamento energetico. E una cosa importante da dire e da ribadire, soprattutto in vista dei grandi tromboni che cercano sempre di mettersi sul carro del vincitore, è che dopo il grande risultato referendario è un patrimonio costruito e portato, e che ha raggiunto l'obiettivo grazie alla sola forza dei comitati popolari, che hanno visto un insieme di cittadini e rimboccarsi le maniche e scendere di nuovo e partecipare alla vita politica della propria città, della propria società. E quindi non c'entrano quelli che cercano di dire: ma sì, anche noi abbiamo appoggiato, sì, anche noi siamo stati amici. Diciamo che noi li valutiamo come quelli che su Facebook hanno cliccato mi piace sui comunicati, sui comitati dell'acqua, insomma. E quindi tutto il lavoro l'abbiamo fatto noi, siamo impegnati, che abbiamo cercato di mobilizzare, di riprendere la discussione collettiva su questi temi che sono importanti, appunto, perché se non fosse altro perché non abbiamo un piano nazionale sull'energia, e qui quindi l'energia è direzionata in base alle varie lobby di turno e polarizzata in base alle varie lobby, soprattutto quella dell'Enel, che insieme ai profitti porta anche a passeggio un po' di morte e distruzione per il mondo. E soprattutto anche per quanto riguarda la questione importante dell'acqua, che insomma, che per cui io mi fermo, e quando mi fermo per la questione dell'acqua e guardo Cicillo negli occhi, Cicillo che è l'uomo dei comitati, l'uomo self comitato man e quindi Cicillo, vai, facci sognare. In effetti avevamo concordato l'intervento mio come non esponente dei comitati, ma proprio come i comitati ero io. Vabbè, comunque lasciamo perdere questa cosa. No, quello che ha detto Samuele è sacrosanto, e acquista tanto più valore in questi giorni, poiché c'è una rincorsa sia da destra che da sinistra, che dall'immancabile centro, che sappiamo bene in un'accezione un pochino più colorita cosa rappresenta, ad accaparrarsi non solo i risultati politici di questa vittoria, ma anche a tentare di strumentalizzare adesso quello che è il futuro di questo lungo percorso che stiamo iniziando, sto dicendo non a caso, sull'acqua. Infatti facevo una riflessione stamattina in macchina, io e la radio, mentre salivamo all'università, e pensavo: ogni tanto si sente parlare alla televisione di un politico a caso che dice abbiamo la maggioranza degli italiani che ci hanno votato, eccetera eccetera. Ma facendo un ragionamento, diciamo, abbassandoci a quei livelli, potremmo dire che mai come questa volta effettivamente la maggioranza degli italiani si è espressa, perché se in quel caso, diciamo, per quanto riguarda le elezioni, abbiamo che un 20% di un 60% delle persone che va a votare è favorevole a Tizio o a Caio, qui abbiamo invece un risultato un pochino più diverso, che c'è il 53,4% delle persone che realmente è interessato a un argomento, e poi vabbè il 99,999 milioni che ha deciso di intraprendere un percorso verso quella che è l'acqua pubblica e non serva delle leggi del mercato. E quindi dicevo che Cicillo, secondo me ho capito perché c'è questa cosa. Io l'ho capito. Secondo me, no, quando dicono che abbiamo la maggioranza degli italiani, no? E poi davanti a questo referendum non dicono niente, nonostante insomma abbiamo portato la maggioranza assoluta a votare per il sì, e perché quando dicono che abbiamo, vuol dire che proprio la posseggono, che si insegnano cose loro, che investiscono e piazzano in base al ricatto della voce, diciamo, ma penso che Mediaset abbia votato Berlusconi non è a caso questa cosa. Sì, no, infatti probabilmente sanno anche i nomi e cognomi di chi li va a votare, quindi c'è questo cosa di possesso che è molto forte. No, il percorso da fare, diciamo che col referendum è appena iniziato, il percorso verso questa ripubblicizzazione effettiva dell'acqua. Basti pensare che subito dopo la vittoria c'è chi si è affrettato a fare leggi qui e là, sottolineando il fatto che comunque la gestione della rete può anche essere privata, e badate bene che questa, come dire, non dico che si va contro la volontà popolare, ma poco ci manca, perché è importante sottolineare che il discorso che è stato fatto dai vari comitati durante questi mesi di mobilitazione non è stato fatto abroghiamo la legge perché non ci piace, no, è stato fatto un discorso decisamente più ampio, finalmente un discorso che va al di là della singola scadenza elettorale, ma guarda in prospettiva e dice: no, noi l'acqua non è che non la vogliamo come te, noi l'acqua la vogliamo pubblica, che sia gestita interamente da noi. Quindi anche da questo si vede subito come ci sia stata innanzitutto una poca partecipazione tra i partiti di turno e i comitati, diciamo, non c'è stata sinergia, e meno male, aggiungo io, a parte qualche eccezione, ma eccezione a livello che può essere locale, insomma, voglio dire, non è stata una linea nazionale. A parte qui c'è qualcuno che mi fa l'occhiolino. È arrivato appunto un altro esponente di questo dell'occhiolino, diciamo. Ma bensì, appunto, il lavoro che è stato fatto dai vari comitati e quindi dai cittadini è stato straordinario. Si è riusciti appunto a instaurare questo meccanismo tale per cui si è detto l'acqua d'ora in poi vogliamo che sia gestita in maniera interamente pubblica e non, cioè i privati non devono proprio metterci il naso, poiché al di là del discorso sul bene comune o meno si riconosce quella che è l'importanza di... c'è un naso che si avvicina tipo lo squalo, possiamo dire. Ho perso il filo, lo scolo mi ha fatto spaventare. Vabbè, dai, passiamo a una canzone, magari riesco a riprendere il filo e poi non lo so. Dai, Don dai, Marianna, ma... Marianna. Non è questa storia, obbligo morale, russo rozpizduto maniacale e paranormale. О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да-да-да-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся маслина, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов, без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился Гекату и о Борго Мадонна, где тритворный подъезд или этот отъезд, тело мусоропровода. Tragedia, oh mia madre, oh, crescendo paranoia. Sta tragedia, oh mia madre, oh, porca madonna. No! ti creste no. E appunto sto perdendo. E da questa inquaria di storia criminale. E io te mudoche. Sei mudoche, mudoche. А солнце Санта Маринеллы вгрызалось нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя. Но вот как-то однажды, не знаю уж как, пришло и нам добро из огня. И тогда на расходняк. И тогда на расходняк. Salve, eccoci tornati qui dopo questa canzone semplicemente meravigliosa su Banda Armata, la trasmissione che non ti abbandona mai. Adesso anche in versione live di fronte all'aula più occupata. Parlavamo di acqua pubblica, che vogliamo sia pubblica. Allora noi che ci battiamo perché l'acqua sia venga ripubblicizzata, non solo che torni alle mani del pubblico, no? Ma anche perché ci sia una gestione più come dire, più partecipata, più controllata da parte dei cittadini, che il pubblico spesso non ti garantisce neanche lui. E quindi proprio vogliamo andare anche oltre il pubblico, siamo proprio così, siamo testardi, cocciuti, l'acqua la vogliamo, come tante altre cose che consideriamo come un bene essenziale, la vogliamo proprio noi. Ma di questo, se non sbaglio, stava parlando Cicillo, che come uomo dei comitati io non mi sento di mettermi sopra Cicillo. Vai Cicillo. Sì, stavamo parlando diciamo dell'ingerenza che in questi giorni, o meglio dai giorni successivi alla vittoria del referendum, vari partiti hanno tentato di... Qua mi fanno gesti che non dovreste mai vedere, diciamo. Hanno tentato di mettere, diciamo, la propria testolina e il proprio cappello sopra questa vittoria. Qui in Calabria la discussione è accesissima. Basti pensare che c'è Guccione che dopo 150 anni si è reso conto che è necessaria una legge sull'acqua qui in Calabria. Incredibile. Un acume politico clamoroso, insomma. È questo, insomma, è importante adesso continuare questo percorso che si è avviato tramite la formazione dei vari comitati, che hanno permesso a persone, diciamo, solitamente di idee diverse, diciamo, molto eterogenee, di parlare uno con l'altro. Stanno picchiando il regista, una cosa che è incredibile. Il percorso adesso, per quanto mi riguarda, si fa decisamente in salita, perché adesso bisognerà andare a incidere da un punto di vista legislativo, sia a livello nazionale che a livello locale. C'è un disturbatore alla Paolini qui in radio, diciamo. Già oggi, per esempio, il comitato Bruno Arcuri è andato sotto il palazzo della regione per presentare una mozione, diciamo, di sfiducia rispetto alla... Mi ricordo solo il numero, ma non mi ricordo se era la legge regionale, insomma, quella che aboliva Iato. Dovevamo avere con noi un partecipante a questa scorribanda giornaliera, ma non è potuto venire per impegni di studio, quindi non sappiamo bene come sia andata la cosa. Vi aggiorneremo nella prossima puntata. Però questo fa vedere come appunto i comitati non si sono fatti diciamo fatti addormentare da questa vittoria, ma bensì hanno continuato subito a battere il, appunto, a battere il ferro finché è caldo. Bisogna farlo, perché altrimenti si perde il filo e specialmente si perde tutta quella, quella forza di persone che questo lavoro ormai di mesi è riuscito a produrre. Non so se forse il naso che mi ha distrutto prima voleva intervenire aggiungendo qualcosa, non so, altrimenti possiamo... C'ha molto da dire, attenzione. Ho molte cose da dire qui a banda armata, la trasmissione che ti pedina, no? Cosa pensi di questa battuta? È una cacata pazzesca. Vabbè, no, io volevo dire che lo so com'è andata stamattina, perché praticamente sono andati lì in sede regionale, sede di consiglio regionale, e poi si sono accorti che non li facevano entrare perché erano senza cravatta e sono tornati indietro. 2 minuti di silenzio. Sono entrate solamente le cravatte. Non loro. No, io volevo soltanto dire che questa storia dell'acqua, fra l'altro, ha avuto anche un risvolto nazionale. Non so, essendo arrivato tardi, non so se, se è stato detto la storia dell'agenzia dell'acqua. Cici, fammi un segno. È che praticamente in barba al referendum, giusto per capire quanto è furfante questo governo, in barba al referendum, il governo in uno dei suoi decreti, delle sue leggi insalate, ha insaccato anche l'agenzia dell'acqua, che di fatto avvia un processo ulteriore di privatizzazione di questa risorsa. Per cui, insomma, mi associo a quello che diceva prima Cicillo, c'è ancora tanto da fare, tutto qua. No, una riflessione sul fatto della cravatta, che non so se sia davvero vero o falso, insomma, è un'esperienza che abbiamo vissuto noi l'altra volta, Paola, con Samuele, che ci siamo resi conto che, diciamo, per strada si può camminare tranquillamente con i pantaloncini, in tribunale, miracolosamente, si offende la pubblica degenza, se entri... c'è qui un testimone che dice, afferma di aver acquistato un pantalone dai cinesi e sottolinea dai cinesi, probabilmente perché costa poco, non lo so, 10 euro hanno fatto fesso, io lo stavamo comprando a 5, no? Insomma, vabbè, al di là del cazzeggio, insomma, ci fa capire quanto la burocrazia a volte sia proprio incredibilmente limitante per quanto riguarda le libertà di ciascuno di noi. No, ma te lo confermo perché in consiglio regionale, quando siamo andati a presentare la mozione no carbone, abbiamo dovuto comprare tutti quanti la cravatta. Io ho comprato una dei cinesi 3 euro, che tra l'altro era già annodata, praticamente il nodo, questa è una cosa che io mi sento di condividere con te, praticamente il nodo era una cerniera che era sotto la cravatta, una cravatta finta, tutta la, poi stringevi questa cerniera e si annodava da sola, per cui anche grande esperienza da questo punto di vista. Una cravatta fatta per il consiglio regionale, comunque. Esatto. Compenso ci insegna il caro Principe, Santo Principe, che del suo bon ton ha dato un estremo esempio nei video di presentazione. Vi invitiamo a vedere su YouTube i video di Santo Principe, che esorta, su, esorta. I soliti moralisti di sinistra, insomma. Comunque, l'unica cosa che volevo dire poi è che in questo periodo, essendo che la mia autora di rotto, ho sentito molte trasmissioni, RDS, 102.5, insomma tutte queste radio del mainstream, devo dire che mi hanno fatto capire che noi abbiamo un difetto. Che è successo? Per non ti piace il mainstream? Praticamente abbiamo capito che la nostra trasmissione è un difetto, perché la nostra trasmissione scende troppo nel particolare. Invece una vera trasmissione radio, nel momento in cui si discute, che ne so, dell'acqua e della cosa, a un certo punto, dopo non aver detto nulla, dopo aver detto c'è il referendum, deve dire dovrebbe essere così, ma comunque poi entriamo in politica, quindi cambiamo argomento. Quindi io invito i miei colleghi di microfono a non entrare nelle questioni politiche, perché insomma è una trasmissione radio, per cui vorrei dire qui non si parla di politica, dovremmo fare un cartello. No, no, effettivamente ha ragione Flavio, mi associo. Anche se non credo che almeno nel mio intervento ho corso questo rischio, insomma, di entrare nel politico. Comunque mi associo pienamente. Cioè, qua, la radio, da che mondo è mondo, passa solo musica. Poi qualcuno ogni tanto parla, spara cazzate, però non fa niente. Cioè, d'altronde le questioni non sono importanti. Abbiamo aperto con la Valsusa, giusto per fare un esempio, ma così, insomma, perché sono quattro sciamannati dei centri sociali che si divertono a lanciare pietre contro dei poveri poliziotti che li stavano caricando a suon di lacrimogeni, cioè, semplicemente caricando, ragione per, perché non hanno usato altri mezzi. Insomma, comunque della Notavo poi parliamo più approfonditamente dopo. Credo che sia arrivato il momento di fare l'ennesimo stacco musicale per gli amanti della non politica, quindi vai maestro. We finish up with a song called Whiskey in the Jar. I couldn't chill the water, so a prisoner I was taken, but sharing never knew in my life. What for the daddy over? What for the daddy over? There's whiskey in the jar. I counted out little money, it made a pretty penny. I took it in my hand, I took it home to Jenny. She sighed and she swore, she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. For sharing and with your own eye. What for the daddy o? What for the daddy o? And who's keeping this yard? Early in the morning, just before I go for trouble, up comes the band of trippers, and like my captain Farrell, I farted with me pistol, my dear, yes, he had gone. I could not shoot the water, so a prisoner I was taken, my sherry, I'm a little bit of a lie. What for the radio? What for the radio? The whiskey in the jar. If there's anyone can help me, to me brother in the army, now I can find a station in Park or in Killarney. And if he'll go with me, we'll go rowing in Kilkenny. And I'm sure he'd treat me better than he's dying to live in Jenny. For sure, I'm gonna do it. What for the daddy, in the herding and the golden, but I take delight in the truth of the body, and working pretty fair maids in the barn and bright early. What sherry am I never to put on? What for the daddy, oh, what for the daddy, oh, the whiskey in the jar, the sherry am I never to put on? What for the daddy, oh, what for the daddy, oh, e benvenuti di nuovo, nonostante qualche piccolo problema tecnico, benvenuti di nuovo qui con Banda Armata, la trasmissione così coinvolgente che ascoltarla ti sequestra. Certo, questo è un giudizio per sulla battuta. Però non puoi dire sempre le stesse cose. Allora mi rifiuto di dare un giudizio. Ok, va bene, quindi insomma Cicci, il pippotto sull'acqua è finito. Dobbiamo... Sì, sì, no, cioè io ho parlato 28 minuti sull'acqua, la gente si sarà anche un pochino forse rotta le acque, quindi non lo so, dai, passiamo al prossimo argomento che dovrebbe essere RDT mo basta, quindi puoi tranquillamente iniziare tu, così ci fai un aggiornamento sulla situazione sia locale che interplanetaria, visto che a breve ci sarà una plenaria, insomma. E vabbè, la rete difesa del territorio fino a questo momento è stata particolarmente impegnata nella campagna referendaria, a parte la sortita fatta all'ufficio del commissario, dove abbiamo costruito un muro simbolico davanti al commissario. Adesso si prospetta una campagna incentrata proprio sulla fine del commissariamento all'emergenza rifiuti, di cui abbiamo parlato molto spesso e la cui esigenza è comunque sempre più forte. L'emergenza rifiuti è diventata un caso, non che prima non lo sia stata, ma è diventata ancora di più un caso nazionale con la lettura da parte della Commissione della Camera dei documenti dell'inchiesta. sulla situazione di rifiuti in Calabria, con un'urgenza che è sempre all'ordine del giorno. Lamezia, Pianopoli, oggi se non vado errato Vibo, progetti di nuove discariche. Io in particolare sto seguendo la questione di Scala Coeli, dove la Bieco, che è una delle aziende private che sta speculando sui rifiuti calabresi da molto tempo, sta per far iniziare i lavori di una nuova discarica. C'è un altro progetto a Corigliano. Insomma, la questione dei rifiuti è sempre purtroppo all'ordine del giorno, e ancora di più se si vede qual è la prospettiva. La prospettiva non può che essere quella, la drammatica situazione napoletana di questi giorni, che a mio modo di vedere, per quanto ci riguarda, è dietro l'angolo. Se non si prendono dei provvedimenti, se non si dà fine a questo ridicolo commissariamento e non si avvia una gestione dei rifiuti che sia oculata e non finalizzata alla speculazione di private, alla speculazione dell''ndrangheta e di qualche amministratore locale. Samuele, volevi dire qualcosa? Soprattutto a proposito dell'amministratore locale, che è una figura secondo me molto affascinante dell'istituzione borghese. Per istituzione, per amministratore locale possiamo intendere sindaco, assessore, ma anche che posso dire, il presidente della comunità montana, consigliere, amministratore locale. Tu cosa ne pensi? Il rettore locale. Un pensiero sull'amministratore locale, per favore. Il mio pensiero, quando si tratta di amministratore locale, non può che andare, soprattutto in questo momento, a Mario Russo, una persona che amo, che stimo, che semplicemente vorrei avere, stare insieme, vorrei insomma conoscerlo. Una persona che dopo aver combinato vari disastri con la discarica di Scalea e la depurazione a Scalea, dopo aver fatto inutili opere pubbliche come il celeberrimo aeroporto di Scalea ed altre cose, tutte cose che una piscina comunale che non funziona. Io penso che quest'uomo abbia dentro in sé una cosa che pochi hanno: l'arte. E per questo Scopelliti e Pino Gentile hanno voluto premiare l'arte, perché loro, quando tu li vedi, non ci credi, però è così, loro hanno questo senso artistico, e quindi adesso fa parte dell'ARPACAL, nel consiglio direttivo dell'ARPACAL. Io mi dissocio da tutte le critiche, soprattutto a Pino Gentile. Pino, questo è un pazzo scatenato e non sa quello che dice. Noi siamo assolutamente a favore di Pino Gentile e di tutta la famiglia Gentile. Di tutti gli amministratori locali, per di più. Soprattutto se sono gentili. Di tutti gli amministratori locali, gentili e gentile. Io soprattutto gentili. Per cui, insomma, chiaramente ci dissociamo da ogni tipo di critica che può andare nella direzione. Insomma, vogliamo mettere, mi sento un po' in imbarazzo, perché capito, cioè, non puoi dire queste cose più di gente, dai, insomma. No, è vero, basta. Mi hai proprio convinto, infatti adesso penserò a Katia Gentile è lei, basta, no? Ci vuole una canzone per Katia Gentile. Adesso Peppe ci darà una canzone per Katia Gentile, vai. Che vuole sentire di piante, sorrisi, restare o partire. Racconta una terra, racconta una gente che un resto del mondo non sa più niente. Sente una voce che parla d'amore, di Africa e Sud, di sabbia e colore. Che l'Africa e Sud non è tanto lontano, ti sembra se strano che ci somigliamo. Oh, oh, oh, Calabria, secondo me chi vuoi fare lo siamo il Marasca. Oh, Eccoci tornati, questo erano i Calm, che è il gruppo che poi ha chiuso anche la campagna referendaria universitaria con un grande concerto nell'Unical in cui abbiamo dato il meglio di noi. E, detto questo, per tornare quindi alle questioni referendarie, il tema, poi come diceva giustamente Ciccillo, non si esaurisce qui. E in particolar modo con la campagna Ma Basta, che giustamente, visto che la legge sull'acqua è la stessa, per esempio la stessa dell'università, per cui noi la legge 133 è quella che ha fatto quei disastrosi tagli alla scuola e alle università pubbliche per i quali il collettivo P2 Occupato è nato, ma è anche la stessa che promuove e sviluppa le società miste, che sono quelle società che si prendono in carica la gestione di alcune società pubblico-private, in cui sostanzialmente, perché servono sostanzialmente a prendere i soldi pubblici e in qualche modo farli gestire dai privati con le logiche consuete che sappiamo, che sono state logiche di tutte le privatizzazioni, perché secondo me esemplificano chiaramente nelle ferrovie italiane, che soprattutto in quanto a servizi e in quanto a tariffe hanno fatto scuola in Europa. Insomma, basti pensare un solo dato, che abbiamo in un terzo dal dopoguerra in poi al meridione abbiamo un terzo delle ferrovie che c'erano prima. Questo è un dato che francamente dovrebbe far riflettere, soprattutto per quanto riguarda le scelte di mobilità che fa il governo, visto che è lui il responsabile formale. Detto questo, le società miste appunto sono un grande problema, contro questo, infatti anche contro questo la campagna Mo Basta si vuole andare a cozzare, perché sostanzialmente è un modo di in qualche modo di negazione della democrazia, perché noi non siamo più chiamati anche attraverso il filtro delle autonomie locali dei comuni, insomma, a decidere di quelli che sono i nostri servizi, i nostri beni. E allo stesso modo è il commissariamento regionale all'emergenza rifiuti, un'emergenza che regionalmente è un problema molto importante, che nazionalmente è un problema importante, ma regionalmente ancora di più, dato il caso di Vibo, Serre, eccetera, eccetera. Guarda caso, il problema dell'acqua si accoppia molto spesso, anche come luogo, anche come entità malevola, al problema dei rifiuti. La Veolia infatti gestisce inceneritori inceneritori, gestisce rifiuti, gestisce anche la multinazionale dietro le acque. Lo scopo di tutto questo qui è il profitto privato. Il commissariamento, agendo in deroga alle leggi che ci sono, ha la libertà di dare un abbraccio, un occhiolino, un momento di attenzione ad amici, parenti, mafiosi, eccetera, eccetera. E quindi è chiaro che noi abbiamo la necessità adesso di far sì che questo commissariamento finisca, e come già siamo andati davanti a Catanzaro a murare la porta del commissariamento a significare che questa cosa deve finire, così vogliamo promuovere una grande manifestazione a fine luglio che permette di ribadire fortemente il concetto, perché i calabresi non ne possono più di avere acqua che non, in alcuni casi non è potabile, che esce dai rubinetti non potabili, di avere rifiuti in mezzo alle strade, oppure che attraverso la mafia ce li vengono nei nostri piatti perché sono insabbiati o interrati, di avere una situazione che ci porterà a non riuscire a vivere anche quel poco di Calabria che non è stata cementificata. Per questo noi a Cosenza adesso proponiamo come rete in difesa del territorio una plenaria che in sostanza riprenda le fila del discorso dopo il referendum, riprenda le fila quindi del discorso dei servizi dell'energia, e dell'energia, e che porti avanti la campagna per la fine di questo commissariamento. È una questione importante e vi terremo sicuramente aggiornati su quella che è la plenaria di Cosenza. No, vabbè, già che ci sono, visto che mi sono sporcato le mani prima facendo quel paragone sulla legittimità del voto, eccetera, eccetera, mi sporco ulteriormente le mani spiegando anche un altro motivo, un altro punto di vista del perché il commissariamento dei rifiuti deve finire. Già che c'è questa voglia matta, diciamo, proprio è una cosa morbosa, di gestire tutto secondo quelle che sono impostazioni tipo privato, ebbene credo io, no, che dopo 14 anni di fallimenti un manager di una qualsiasi azienda debba essere preso a calci nel culo. Quindi però tu vuoi bene i manager, allora tu. Aspetta, quelli sto arrivando. A parte con qualche eccezione, che ne so, che chi sta in Trenitalia viene promosso all'Italia e viceversa, insomma, però voglio dire, i fallimenti se li scambiano. In questo caso no, a parte gli scherzi, dopo 14 anni, voglio dire, l'emergenza, volendo proprio fare un sacrificio personale, la puoi anche accettare. Però dopo 6 mesi deve finire un'emergenza. Aiuto. E qui un anno, ecco. Però dopo 14 anni, sinceramente, dopo le cose, invece che migliorare, peggiorano. Ma questo perché? Perché nemmeno si vuole affrontare il problema, o meglio, lo si affronta secondo un'ottica completamente sbagliata. Questa volta mi permetto anche di esprimere giudizi, insomma, di solito non lo faccio. Bene, direi che a questo punto questa esperienza, così come quella di Trenitalia o altri manager famosissimi, debba finire. E un'altra considerazione... Possibilmente senza i milioni di euro di buonuscita, per cortesia. Vabbè, quella la chiediamo troppo, una cosa per volta. Non so se era nelle clausole della campagna, ma basta, senza la buona uscita per il commissario, non lo so. Chiedo un attimo al notaio. Allora, devo dire la verità. Il commissario non ha una buona uscita come un manager. Il commissario semplicemente gira i soldi agli amici, ai sindaci, cose del genere. Però non già una... Devo dire la verità. Cioè, non c'ha la buona uscita da super manager, per esempio, che ha avuto le ferrovie. È la verità. Ma è metaforico il paragone. Però sicuramente vuoi mettere che dopo tanti anni insomma, questo è recente, però dico, dopo tanti anni di commissariamento, lui è che è responsabile, adesso qualche soldino glielo dai, si compra il gelato, come la nonna, no? Guarda, da che mondo è mondo i commissari, quando finiscono il loro lavoro da commissario, vengono promossi. Da che mondo è mondo, almeno da quando, tutti i casi che ho visto di commissari in qualche modo vengono promossi. Quei pochi che non sono stati promossi erano perché erano così in brazza a Maria, che erano così burattini, solitamente chi vede UPD per intenderci, e capo alla fine finiscono a fare i responsabili ambiente del partito, tanto per intenderci, no, facciamo qualche esempio concreto, non lo so. Vabbè. Pierpaolo ci pone anche l'esempio del commissario Zenigata, forse il commissario più famoso del mondo. Ma io sono disposto anche, magari facciamo una colletta e gli diamo una buona uscita. Perché no, ma perché i commissari non hanno la buona uscita, perché loro hanno la buona entrata. Per cui non hanno bisogno della buona uscita. Io direi, per lanciare prima di lanciare una canzone, che anche noi ce l'abbiamo una buona entrata, però non vi dico dove. L'uscita, insomma, corrisponde anche con la buona uscita, il luogo d'entrata. No, e poi un'altra considerazione stavo dicendo prima che volevo fare è il paragone che si può fare, cioè l'unico altro esempio chiarissimo che abbiamo sull'emergenza rifiuti è quello di Napoli, no? Ma perché a Napoli appicciano cassonetti, lanciano molotov contro i poliziotti, eccetera eccetera. Qui invece si ha la capacità, ma questa è una gestione, diciamo, come dire, imprenditoriale mafiosa di tipo diverso, perché la camorra sappiamo che agisce in maniera diversa, mentre l'andrangheta ha modo di agire un pochino più silenziosi e sotterranei. Qui invece tutto tace, tutto è silente, quindi nessuno si accorge che da 14 anni siamo in un regime, ecco, chiamiamolo con il proprio nome, di commissariamento. Quindi è però questa gestione commissariale, questo tipo di strategia dell'andrangheta ha portato i suoi frutti. Ha portato i suoi frutti e dobbiamo dirla la verità. Se non fate questa faccia, perché voglio dire, di poche settimane fa, diciamo, la notizia che rispetto all'ecomafia noi abbiamo scalato la classifica e quest'anno siamo al secondo posto. Cioè, va detta la verità. C'è lui che fa questa faccia come dire: no, ma è tutta fortuna, è colpa di Mourinho, cose del genere. Cioè, dai, per favore. A scuola mi avrebbero detto: il ragazzo si può impegnare di più, comunque magari prossimamente. E per cui, cioè, questo qui sembra un dato molto importante a me. Il fatturato dell'ecomafia in Italia è più o meno 10 miliardi di euro, in cui noi siamo secondi solo dietro la Campania, ma in risalita, in netta risalita. Secondo me quest'anno, con una buona campagna acquisti, qualche scaricatore, qualche proprietario di discarica, qualche sindaco, qualche docente universitario, secondo me possiamo aspirare anche allo scudetto, insomma. Allora, a questo punto, visto che siamo in tema, diciamo, ho l'onore di inaugurare la nuova rubrica sportiva, qui anche abbandonata, perché non ci facciamo mancare nulla, e quindi passo la parola al nostro esperto che ci farà un rapido aggiornamento sulle situazioni del calciomercato. L'ultima notizia appena arrivata, la Juventus ha ingaggiato un nuovo portiere, Renato Brunetta, dall'Atletico Madrid per 3 milioni di euro. Vagabondo, che non è altro. In ogni caso, va bene, stiamo per lanciare il prossimo pezzo. Samuele chiede la parola, una rapida assemblea gliela diamo, giusto perché siamo democratici, vai. No, niente, una cosa che mi avete fatto venire in mente adesso è che abbiamo la svolta. Secondo me siamo veramente a un punto di svolta. Dopo che abbiamo, diciamo la verità, abbiamo vinto il referendum non per grazie ai comitati, ma perché i vescovi si sono espressi. I vescovi hanno detto a Napoli che bisogna risolvere il problema dei rifiuti, e anche lì hanno cliccato mi piace. Vai Peppe. We'll be right back. sale coi passi della Bibbia, Gaia sopravviverà a questi cazzo di asteroidi che non hanno mai schiacciato neanche una farfalla. Sei tu che tracci Gaia come una recluta annaia, ami il petrolio ma la paglia non è una caldaia, la tua mannaia l'Himalaya, mica l'Himalaya. Gaia si salverà, chi salverà il soldato Ryan? Non i marziani ma te dovrò respingere, non i marziani ma te. Chad Munkoff, non è finito, è finito. Sì, sì, ma Chad Munkoff. Regia, damma 2, damma 2. Houston. Houston. Hai capito, cosa ne pensi di questa battuta? Dai, Peppe, dai, cosa ne pensi di questa battuta? No, beh, Peppe, beh, dalla regia ci vuole un commento alla battuta. Neanche mi piace. Non mi piace. Allora, a questo punto mi pare che in scaletta c'era. C'era la TAV. Dunque, la TAV, sì, la TAV siamo d'accordo perché finalmente un po' di sviluppo per la nazione. Serve un'infrastruttura, noi lo diciamo sempre, soprattutto al sud. Fra l'altro, se non mi sbaglio, era un vecchio programma borbonico. Mi pare che si trattasse della strada statale ionica, la linea, l'elettrificazione della linea sia ionica che tirrenica col raddoppio del binario è la Torino-Lione, per cui insomma in perfetta linea con mi piace in perfetta linea con la politica borbonica che noi da sempre in questo programma, ricordiamo che questa è Banda Armata, salutiamo tutti gli ascoltatori di Fuori Onda Radio, di Radio Cirome, di Radio Transizione di Fase, lo ricordo, Banda Armata, la trasmissione così entusiasmante che ti sequestra. Dai Marco, un commento sulla battuta, dai, dai. Insomma, torniamo a parlare di cose serie, anche perché quello che è successo è abbastanza drammatico. Comincia, vai Samuele, che poi vorrei dire qualche cosa a proposito veramente di quello che è successo. Dov'è che era? No, scherzo, dai. Comunque nel frattempo ci siamo dissociati tutti quanti, abbiamo tutti quanti cliccato non mi piace, sicuramente non condivideremo mai le cose che ha detto Flavio. In ogni caso, comunque, niente era contro Pino Gentile, io ci tengo a sottolineare questa cosa qui, cioè Pino Gentile non so se è per la TAV, ma se è per la TAV io sono per la TAV, se è contro la TAV io sono contro la TAV, insomma, sicuramente non era niente contro Pino Gentile. Grazie, Pino Gentile, io mi associo, faccio clicco mi piace, condivido questa cosa che dice Flavio, perché veramente Pino Gentile, grazie a lui, io lo volevo dire, che si è capito che sono scaleotto, sono arrivati 300.000 euro per la scuola media di Scalea, per il comfort. Antoniotti, ricordati Antoniotti. No, lascia stare, Antoniotti è un dilettante rispetto a queste cose. E 300.000 euro per la scuola media di Scalea, che per l'infrastrutturazione della scuola media di Scalea, che io ho fatto e che non sono evidentemente vivo dopo questa esperienza e non ho incontrato grandi problemi. Però devo finire di dire che gli mancano i soldi per pagare i supplenti e i bidelli. Grazie. E la TAV, allora pagare la TAV. Comunque, se non sbaglio, adesso detto anche questo, Cicillo, dopo aver interpretato Tafazzi per un po' di tempo, vuole dire qualcosa. Mi impongono serietà e quindi dovrei passare il microfono a qualcun altro. Ma in ogni caso, diciamo, abbiamo pensato di iniziare la trasmissione semplicemente con 3 secondi di cronaca dalla Valsusa di ieri, diciamo, in cui appunto i valsusini dicevano che loro non si arrenderanno, ed è stato forte anche il messaggio che è stato lanciato ieri. Guardavo la 7, il programma di Gad Lerner, che non ricordo come si chiama, fedele. In realtà il messaggio è il cui titolo è ispirato a Padre Fedele, ovviamente. Beh, che ha dichiarato: cara suora, chissà cosa c'è dietro di te. E lì la fantasia, solo la fantasia. Chi c'è dietro di te, vero? E lì la fantasia solo fa correre. Cioè, posso dire una cosa? Chiedo all'assemblea: mandiamo uno stacco musicale, dopo parliamo della TAV, che è meglio, va? Mi accodo, diciamo, questa è... ai marinai, lauti guadagni, sorrisi trasversali, nei comizi vi insultate, davanti ai soldi vi abbracciate, ma l'amianto fa male, non diteci stronzate, il primo sondaggio lo fanno sopra la testa della gente, ma niente da fare, neanche uno che si arrende, lo Stato garante manda i suoi soldati, ma noi non ci arrendiamo. Siamo nati! No! No! Allora, desidero esprimere la mia serietà verso le forze dell'ordine. Qui diciamo che non è la mia solita coglionetta, come si potrebbe pensare, ma è il neo sindaco di Torino che ha pensato bene di cominciare il suo mandato facendo cappellate alla grandissima, diciamo. E anche ringraziato tutti quanti perché la situazione non è degenerata. Vabbè, ognuno diciamo ha le idee proprie riguardo alla degenerazione delle cose. I fatti diciamo parlano chiaro, 2000 agenti diciamo in tenuta antisommossa, antiguerriglia, qualcuno l'ha definito niente di meno, pensate un pochino, anche perché in realtà poi lo scenario che si è delineato è proprio quello di una guerriglia. Ieri ci sono presentati in Val Susa e hanno pensato di dare l'avvio ai lavori del mega cantiere che darà alla luce questo ennesimo scempio ambientale e non solo. A suon di lacrimogeni, facendo diciamo creando un vero e proprio scompiglio, e non solo tra le compagini dei manifestanti, o meglio dei presidianti, anche perché qui è necessario fare una doverosa precisazione. Come molto spesso si tenta di fare, si butta in cacciara la situazione dicendo che lì c'erano ragazzi di centri sociali, questi pericolosissimi e armati personaggi che ormai sconvolgono l'Italia da centinaia di migliaia d'anni, ma questo ovviamente è falso. Ci sono anche frange, per così dire, di ragazzi dei centri sociali che comunque collaborano da sempre con i comitati locali della Valsusa, ma la maggior parte delle persone che stanno lì non sono affatto appartenenti ai centri sociali o a quello, quell'altro partito, ma bensì anche in questo caso sono semplicemente delle persone, sono dei cittadini che rivendicano il loro sacrosanto diritto di difendere innanzitutto il proprio territorio, ma non è solo questo, perché si oppongono anche a quello che è più in generale un modello di sviluppo che loro reputano completamente sgarrato. La cosa che diciamo mi preme anche sottolineare è il fatto che si parla sempre di alta velocità, ma non diciamo di quello che è il reale progetto che c'è in Europa e che coinvolge poi anche noi calabresi tramite la costruzione del ponte di Messina. In realtà bisognerebbe parlare di alta capacità, perché i treni ad alta velocità se ne potrebbero anche andare a fare in culo per i fatti loro, ma per quanto riguarda diciamo un discorso più specificatamente economico, l'alta capacità è quello su cui dovremmo soffermarci, poiché secondo gli strateghi dell'economia mondiale, non solo, si pensa che diciamo per risollevare le sorti di questa economia ormai in crisi sia necessario far transitare più merci possibili da un capo all'altro del globo, fottendocene di quello che sta attorno a ciò che passa. Che ce ne frega che se noi in Calabria produciamo le arance, l'importante è che le arance costino poco, che siano belle, tonde, possibilmente poco gustose. Se arrivano dalla Cina o dalla Spagna non ce ne frega niente, però devono arrivare nel più breve tempo possibile, devono arrivare in una quantità consona a soddisfare quelle che sono le leggi del mercato, perché questo è quello che non ci dobbiamo mai scordare. Fatta questa breve parentesi diciamo sulla macroeconomia mondiale e interplanetaria, no vabbè, un minimo di casseggio ci può essere, perché sennò la gente si scoccia. Diciamo quello che è successo ieri, c'è chi rimanda a Genova, ma sinceramente non mi va di aprire quell'argomento, perché Genova insomma potremmo prenderlo anche come un caso troppo distante. Basti pensare a quello che è successo a Terzigno, a Chiaiano, insomma non c'è bisogno di andare troppo in là con gli anni. Questo è un altro problema, noi ci scordiamo sempre di quello che succede nell'immediato, insomma abbiamo una forse poca memoria storica. Quello che succede ormai a questo punto, da 10 anni a questa parte, è che qualsiasi tentativo da parte della popolazione di riappropriarsi di quelli che sono i propri diritti, oppure di contestare quelle che sono le volontà del potente di turno, finiscono e non è demagogia, a manganellate o peggio con arresti e massacri in caserme o altri luoghi, insomma. E come possiamo vedere, così come ho detto per quanto riguarda il fatto del referendum, c'è un netto scostamento da quello che sono le logiche dei politicanti, perché non parlo appunto di politica perché la politica è un'altra cosa, e quella che è invece la politica vera e propria fatta dalle persone come noi, persone che intendono non intendono sottostare ai voleri ad essere trattati come sudditi, ma appunto hanno un desiderio reale di partecipazione e di riscatto. Quello che è successo ieri e che succederà probabilmente lungo tutto l'arco di questa nuova avventura, nuova fase di questa avventura dei Valsusini, sarà un continuo faccia a faccia con le forze dell'ordine. Probabilmente discutevo stamattina con un amico che così come è stato fatto a Terzigno e a Chiaiano, verrà posto come si dice, verrà resa zona militare la zona del cantiere, impedendo così proprio in maniera estremamente restrittiva quelli che sono gli accessi all'intera zona, e diciamo favorendo quelli che possono essere poi successivamente scontri fra chi legittimamente vuole manifestare il proprio dissenso e le forze dell'ordine che saranno lì, pensate un po' a costruire la TAV a questo punto, perché dobbiamo pensare che siano state ingaggiate anche dalle ditte che vogliono fare questo mega scempio. Bene, vedo che Flavio vuole intervenire. Dopo il pippotto altermondista di Cicillo, era quello che volevo dire. No, e poi tra l'altro c'è da dire che questi signori che da tempo stanno lavorando, questi ragazzi, gente, famiglie, che da tempo stanno lavorando per bloccare la TAV, non è che dicono non fate la TAV, dicono ma c'è la linea, potenziamola semplicemente, no? È una cosa abbastanza semplice. Da questo punto di vista a me ha colpito molto un'esplicitazione che c'è stata in questo caso, nel senso è una cosa che noi sappiamo da tempo, che però in questo caso è stata veramente evidente, ovvero che in realtà a decidere anche della violenza da parte delle nostre forze dell'ordine non è stato neanche tanto, al mio modo di vedere, il Maroni di turno, è stata l'Unione Europea di fatto. Perché la barzelletta è stata che appena un ministro dell'Unione Europea ha detto vi facciamo saltare i finanziamenti, Maroni ha detto preparate i carri armati che stiamo andando, non si va mai perdere. E sono un po' progetti fatti per spillare i finanziamenti, un po' come il ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto è stata una banca, è stato un pozzo senza fondo per quanto riguarda politicanza e mafia del ponte sullo stretto. Ovviamente poi il progetto viene rimandato, poi ogni tanto si fa un po' di propaganda, arrivano altri soldi, si rimanda, bla bla bla. Sono sostanzialmente mega opere a misura di finanziamento europeo. E i lavori io penso che cominceranno, non so, probabilmente lì c'è un altro tipo di mentalità, perché sentivo ieri al telegiornale che non appena fatto lo sgombro le chiavi tra virgolette del cantiere militarizzato sono state consegnate alla ditta che farà, che sicuramente comincerà a fare i lavori, poi posso andare avanti con la linea del tempo, poi cade il governo, poi la blocco, poi il governo di centrosinistra, ci metti gli amici suoi poi un'altra cosa, il governo di centrosinistra che è più violento di quello di centrodestra, e comunque insomma soldi ne arrivano. Per cui volevo tranquillizzare tutte le ditte, gli appaltatori, i subappaltatori, perché i soldi della TAV arrivano così come sono arrivati allo stretto. E, un'altra cosa volevo dire, e poi io però mi distraggo, no? No, un'altra cosa volevo dire, Samuele, scusami. Volevo dire, siccome leggevo qua la Marcegaglia che dice 150 persone bloccano in modo illegale un territorio e non permettono la realizzazione di un'infrastruttura che è stata decisa democraticamente. E dipende cosa intende per decisa democraticamente. Una precisa, al di là delle cazzate che dice la Marcegaglia, anche perché deciso democraticamente qua non c'è niente. C'è una retorica che secondo me in questo momento è il caso di smontare, c'è quella che si decide da tutt'altra parte una cosa, anche se se si è in 2000 si è più legittimati a farlo di 10 persone che vivono, se nella Val di Susa ci vivono 30 persone, quelle 30 persone per quanto mi riguarda decidono, e se la gente della Val di Susa la TAV non la vuole, io voglio essere proprio sincero, a me cittadino italiano qualsiasi la TAV può anche fare comodo, cittadino di Latina, cittadino di Roma, cittadino di Firenze. Ma se 10 persone che abitano in Val di Susa non la vogliono, me la prendo. Nel senso, non la faccio. Nel senso che deve essere sovrano chi vive sul territorio. Per cui, ammesso e non concesso che fosse come dice la Marcegaglia, e non è così, anche in questo caso io non vedo semplicemente della squallida retorica in questo tipo di affermazioni, che poi sono le affermazioni che ci sono sempre, insomma. Che siano 10 a bloccare una discarica, 50 a bloccare una centrale, o 150 a bloccare una grande opera, la retorica è sempre la stessa, e comunque in ogni caso a me non sembra assolutamente valida. Un'altra cosa a proposito di questo, i 2000 uomini che ha mandato il Ministero degli Interni poi venivano dalle caserne di tutta Italia, erano stati stanziati da qualche settimana, un po' erano a Torino, un po' erano a Novara, un po' in altri posti del Piemonte. La cosa che mi ha fatto un po' ridere è che questi qua arriveranno da Latina, da Frosinone, da Palermo, da Firenze. Arriveranno, sgombereranno la gente che abita a 10 km e che stava dormendo fuori da casa solo perché aveva voglia, dopodiché finito il lavoro tra virgolette se ne torneranno a Frosinone, a Latina, e questo è praticamente il modello democratico di Marcegaglia, Fassino e Maroni. Detto questo, che c'è in playlist? Una canzana? Vabbè con la canzana. giocare, ma non è un fatto di palle. I nazi possono passare duri lividi sul corpo, le lotte, le parole, scateniamo tempeste, ma preferiamo il sole. Guarda, canna fatta sasà, senti, eia eia la la, odia la loro violenza, ma giura, qualcuno pagherà. Grande canzone, grande canzone. Io vorrei ripartire da quello che diceva Cicillo rispetto a che la questione dei centri sociali, cose che sono in antitesi con le persone, o sei persona o sei centro sociale. Questa cosa è bella, perché mi piaceva, faceva pensare appunto alla l'affermazione di Berlusconi, no? Che diceva: abbiamo ascoltato tutti, adesso andiamo avanti con le opere, no? Appunto, avevamo ascoltato tutti, si riferiva alle persone, no? E qui chi manifestava invece era faceva centro sociale, no? E infatti Cicillo in questo caso entrava in contraddizione, perché lui parlava come persona in questo caso, e quindi capito, come fai a essere a favore della TAV se sei una persona? Detto questo, se non volevo aggiungere qualcosa rispetto a questa cosa, la canzone ci faceva tornare in mente anche rispetto a questo, sempre a questo punto, il G8 di Genova di 10 anni fa, rispetto anche al discrimine tra persona persona centro sociale, persona a diavolo occupato, manifestante. E infatti è bene che si ricordino anche quello che i pestaggi, i sequestri e la morte di Carlo Giuliani, perché forse è meglio che magari persone e centri sociali, forse si capisca che i centri sociali sono fatti da persone che scelgono di fare un percorso, che cercano di mettere le loro speranze a fruttare per costruire un mondo migliore. C'è Flavio che detto questo, ho detto tutto. Cici, facciamo, andiamo? Cambiamo argomento. Va bene, allora a questo punto, cari ascoltatori di Banda Armata, la trasmissione che ti pedina e ti minaccia, salutiamo gli ascoltatori di Fuori Onda Radio. Stiamo trasmettendo sempre dall'aula più occupata, tra un fricchettone e un nerd. Salutiamo anche gli ascoltatori di Transizione di Fase Radio Ciroma, che ci ascolteranno domani, dopodomani, dopodomani e dopodomani. Considerando che, salutiamo Pino Gentile. A questo punto rientriamo in un territorio a noi molto più consono, che è quello dell'Università della Calabria, che ci tengo a sottolineare che è diversa dall'Iran, e cominciamo a parlare. Ma dov'è l'Iran? E dopo gli albini. ti piace? Dico, mi piace e condivido. Tra Cannataro e gli albini. Comunque, tornando un attimino seri, giusto con la piccola parentesi di serietà che purtroppo Marco Scrissi ci costringe sempre a tenere in questa trasmissione, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, sono Flavio al microfono. C'è da parlare di un fenomeno alla nostra università, che è quello della commissione statuto. Si tratta di una commissione fenomenale. Ricordiamo che il decreto Gelmini prevedeva l'istituzione di una commissione straordinaria che rivedesse lo statuto secondo i dettami della legge. Questa commissione sta lavorando ormai da 3 mesi per riformare per esempio le strutture didattiche. Come abbiamo detto molto spesso, non ci saranno più le facoltà, i dipartimenti, ma ci saranno soltanto i dipartimenti che si occuperanno di didattica e ricerca. C'è da riformare chiaramente il consiglio d'amministrazione, ed ecco dalla riforma del consiglio d'amministrazione e soprattutto dalla riforma delle elezioni del rettore arrivano le novità più calienti. Fra l'altro vorremmo anche dare un'occhiata alla riforma dello statuto che sta avvenendo alla Mediterranea o all'Università di Catanzaro. Dalle nostre parti il rettore verrà eletto dopo una lunghissima discussione che di politico e di didattica e di ricerca non aveva niente in commissione statuto. Invitiamo tutti quanti a leggere i resoconti della commissione. Si è deciso che il rettore verrà eletto con cinque suoi membri in consiglio di amministrazione, in un consiglio di amministrazione che avrà 10 componenti, per cui il consiglio di amministrazione sarà in tutto, insomma, sarà costituito dal rettore, 5 suoi fedelissimi, quindi siamo a 6, 2 membri esterni dalle comprovate capacità bla bla bla bla bla bla, che deve decidere il rettore. Dopodiché, e attenzione, diciamo l'avanguardia, il baluardo, il grimaldello democratico, 2 rappresentanti degli studenti che che sono stati democraticamente eletti tra Minni e Topolino. che a proposito di grimaldello stanno votando tutto quello che è stato portato dal presidente della commissione in commissione. Il presidente della commissione, indovinate chi è? Peppe, secondo te, dai, mo non mi hai detto che cosa ne pensi della battuta, secondo te il presidente della commissione statuto chi è? Gesù? Un po' più giù. La Torre? Incredibile, è un po' più tra Gesù e Berlusconi, la Torre praticamente. Per cui tutto quello che sta portando il presidente, fra cui questa meravigliosa legge elettorale che praticamente consente a un rettore di governare 6 anni con la maggioranza assoluta del consiglio d'amministrazione, un consiglio d'amministrazione che sostanzialmente deciderà tutto: didattica, ricerca, finanziamenti, diritto allo studio, sanzioni, professore, contratto, qualsiasi cosa. Praticamente c'è una persona che a questo punto a me mi verrebbe da chiamarlo super amministratore delegato, oppure super mega presidente, com'era che era così Fantozzi, super mega presidente galattico. E la democrazia universitaria, insomma, se è andata sostanzialmente a puttane così in 1-2 tata stoppatela. Per semplicità chiamato la Torre, questo è il prossimo libro che scrivere, per semplicità chiamatelo solo la Torre. La cosa che vabbè, Duca Conte, il Duca Conte, sì. La cosa, fra l'altro, ci sembra molto strana. Ci sembra molto strana perché Il rettore, diciamo, come presidente della commissione statuto, ha adottato un atteggiamento in assoluta discontinuità con quella che è stata la sua gestione della nostra università. Ricordiamo che il rettore della Torre è stato eletto 11 anni fa, si è fatto il primo mandato, si è fatto il secondo mandato, c'era lo statuto gli impediva di avere il terzo mandato, ha riformato lo statuto, si è fatto il terzo mandato, adesso la Gelmini gli permette di stare altri 2 anni, per cui veramente non capiamo assolutamente come mai il rettore abbia adottato così di punto in bianco questa impostazione centralistica, antidemocratica nella commissione statuto. Probabilmente le pressioni del ministero, le pressioni dei potentati dell'università lo hanno costretto a questo gesto piuttosto insolito per lui. C'è da dire che in realtà la commissione statuto ha discusso anche di molte altre cose in tutto questo, per esempio della composizione della nostra università dal 2013 in poi. Si è discusso molto della composizione dei nuovi dipartimenti e si è discusso nei termini che interessano noi studenti, a noi cittadini italiani, cioè se devono essere 12 o 13, se i docenti devono essere 50 o 60, di aree didattiche, di argomenti, di importanza dei corsi di studio, dell'importanza della ricerca. Non c'è neanche una parola in 150 pagine di resoconto della commissione statuto. Però la cosa che mi conforta è che questo qui è ancora all'inizio, fondamentalmente, no, Samuele? Sì. La cosa bella è che quando dobbiamo parlare di cose che interessano a noi, parlano dei posti che si devono spartire loro. No, questo volevi dire, ho capito bene? Io no, però non fa niente, mi fa piacere. Detto questo, insomma, questa è la situazione. Attendiamo di avere notizie dall'aldilà da parte dei ricercatori che sono stati eletti in commissione statuto, che sono il dottor Aloi e il dottor Greco, i quali hanno ben pensato dal canto loro di contestare la composizione del senato accademico, dicendo che c'era bisogno della rappresentanza dello studente dottorando, cosa a cui anche noi, per quello che conto, insomma, non so quando può conto, per quello che conto, noi siamo assolutamente d'accordo che i dottorandi, i ricercatori precari e non debbano essere ben rappresentati nel senato accademico, per quanto il senato accademico è praticamente due bastoni a briscola, a coppe. Però al di là di questo, e loro hanno ben pensato, mettiamo uno studente dottorando e togliamo un posto, mica lo togliamo a, che so, ai direttori di dipartimento, ai rappresentanti dei docenti ordinari, no, lo togliamo agli studenti. Questa è stata la proposta che è venuta fuori dai rappresentanti dei ricercatori, quindi attendendo notizie dall'aldilà, anche se sappiamo che c'è una piccola parte dei ricercatori che da questo punto di vista ha avuto sempre una posizione poco corporativa a differenza del resto degli strutturati e compagnia bella. Attendiamo notizie dai ricercatori. Sinceramente non penso che nessuno di noi, vorrei fare un sondaggio, quanti di voi si aspettano notizie dai rappresentanti degli studenti? Scusa, tu come ti chiami? È troppo tardi, ti aspetti notizie dai rappresentanti degli studenti? Sì. No, però un po' fare così, eh. Poi, scusa, tu come ti chiami? Giorgio. Vai, tu come ti chiami? Sì, Tarlo. Vabbè. Comunque, c'è da sottolineare una cosa che veramente io sono quasi commosso dal fatto che i rappresentanti degli studenti sono stati quasi sempre presenti in commissione statuto. Questa è una cosa in cui, se noi avessimo un regista serio in questa cazzo di trasmissione, no, metterebbe gli applausi. Però tu non ce l'hai gli applausi, è vero Beppe? Dici la verità, prenditi le tue responsabilità, ma per la prossima volta possiamo avere gli applausi, cioè almeno per Cambrea, dico, non dico assai, però per Cambrea dovresti avere.